l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa dal nostro punto di vista, l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo subito le coordinate: euronetplus.eu è il sito che, come sempre, vi consiglio di andare a visitare, perché tanti dossier, tante inchieste, tante notizie in tante lingue diverse. Oppure radio24.it, il nostro sito dove poter riascoltare la puntata, trovare il podcast e andare anche a rivedere tutti i contributi extra. Ancora i social, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi tanti scambi, scambi europei, tante avventure di contaminazione culturali e, per fortuna, anche tante donne. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair. Donne che sono eccellenze nel loro campo, le incontreremo durante la puntata, nel campo accademico, nel campo politico, nel campo scientifico. E proprio da loro partiamo con un progetto di cui avevamo già accennato qualche mese fa nella sua genesi, ma che in questi giorni ha avuto la sua presentazione ufficiale. È un portale, 100esperte.it, un portale che vuole essere uno strumento a disposizione di chi maneggia i media, quindi prevalentemente i giornalisti, partendo da un dato di fatto. Tante volte in televisione, sui quotidiani, anche alla radio, quando si va a intervistare un esperto, spesso questo esperto è un uomo. Perché? Non c'è una risposta se non errate consuetudini o se non ignoranza, perché non si conoscono magari nomi e cognomi di donne di eccellenze che potrebbero dare tutte le risposte richieste. Proprio da questo presupposto è nato 100esperte.it. Ne parliamo con Monia Azzalini, ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia e una delle ideatrici del Global Media Monitor Project per l'Italia e di questo sito. Buon sabato Monia, ben trovata all'altra Europa. Sì, grazie, buongiorno a voi. Tanto 100 sono tante o sono poche? Non sono tantissime, nel senso che sono un numero abbastanza simbolico che abbiamo scelto per aprire un sentiero, una strada non ancora percorsa, che è quella di interpellare le donne in qualità di esperte, perché le donne nei mezzi di informazione sono in generale poco presenti. Sì. I risultati dell'ultima edizione del Global Media Monitoring Project 2015 dicono per l'Italia 21% e a livello internazionale il dato è su 114 paesi aderenti a questo progetto internazionale il 24%, dato fermo dal 2010. Quindi le donne sono poche in generale, ma se poi andiamo a vedere anche la funzione narrativa che svolgono, cioè il motivo per cui sono presenti e vengono intervistate nei media, vediamo che per lo più le donne sono presenti come vox populi, difficilmente vengono intervistate in qualità di esperte, 18% a livello nazionale, 19% a livello internazionale, sempre secondo i risultati del progetto che ho citato prima. Quindi c'è un problema di visibilità delle donne che ha ragioni evidentemente anche di tipo storico, che voglio dire possono essere comprensibili, ma proprio perché sono comprensibili bisogna fare qualcosa perché la situazione cambi. La popolazione mondiale all'incirca è composta per la metà da donne, in Italia siamo pure un po' di più, le donne esperte in diversi settori ormai ci sono, fanno più fatica magari a entrare in certi settori le donne e in certi settori professionali e anche a far carriera, ma ci sono, e allora bisogna farle vedere non solo per una questione diciamo di equità, ma anche perché le donne professioniste possono fornire un modello per le nuove generazioni. Certo, il portale che è decollato anche col sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europea raccoglie oggi 100 profili, c'è stato un comitato scientifico misto, so che insomma ci tenevate a sottolinearlo, e sono stati vagliati di fatto i curriculum, le storie, le biografie di queste 100 donne che in questo momento costituiscono una sorta di banca dati delle eccellenze italiane. Sì, per ora diciamo, abbiamo iniziato con un centinaio, in realtà non sono ancora esattamente 100, ma ci stiamo comunque lavorando, sono per l'esattezza 82, ma abbiamo iniziato da donne che lavorano in una area specifica che è quella delle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, per diverse ragioni, perché questo settore, questi settori sono settori fondamentali e strategici per lo sviluppo del nostro paese, per il progresso del nostro paese e in generale per il progresso, perché è un settore in cui c'è bisogno anche molto di investire ed è comunque un settore dove in Italia abbiamo delle eccellenze, tutte affermatesi tramite titoli e meriti, e noi le abbiamo diciamo selezionate appoggiandoci anche a un centro di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, il centro Genders, che da anni lavora con progetti europei sulle carriere scientifiche femminili, e ovviamente le abbiamo anche scelte tenendo in considerazione la disponibilità. Certo. A interfacciarsi con i media, che è stata comunque davvero grande, e devo dire che in occasione del lancio di questo progetto abbiamo ricevuto moltissime mail e siamo estremamente contenti di esperte che si autocandidano anche sfatando un mito per cui le donne sarebbero un falso mito per cui le donne sarebbero timidi e indisponibili a interviste assolutamente. Questo mi sembra assolutamente significativo, insomma i giornalisti ora non hanno più alibi. Ricordiamo che il sito è ideato e promosso dall'Osservatorio di Pavia e dall'Associazione di Giornaliste Giulia. Monia, ci vuole ricordare che cos'è Giulia? Sì, Giulia è un'associazione di giornaliste unite, libere e autonome, e devo aggiungere un altro partner del progetto che è la Fondazione Bracco. Sì. E un ultimo partner tecnico che è Wikimedia, perché l'idea è di rendere Wikipedia le nostre esperte, cioè enciclopediche. Poi di questo magari parleremo più avanti, perché è un ulteriore step di questo progetto. Grazie davvero Monia Azzalini, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi per l'ascolto, arrivederci. www.100esperte.it. Adesso un Europost-it, il traffico, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Questionario e-twinning. A tutti i docenti attivi nel progetto e-twinning ed esperti di gemellaggi elettronici, l'Unità Europea ha lanciato la seconda edizione del questionario di monitoraggio, nato per valutare l'impatto dei gemellaggi e-twinning fra scuole, sia a livello di pratica didattica, sia sullo sviluppo professionale degli insegnanti. Obiettivo del sondaggio è garantire opportunità di formazione sempre migliori, grazie ad una più accurata identificazione dei bisogni professionali segnalati dai docenti. C'è tempo fino al 15 novembre per rispondere al questionario. In palio per coloro che lasceranno il proprio indirizzo, 3 tablet a estrazione. Per tutte le informazioni sul gemellaggio e per compilare il sondaggio, visitate la sezione e-twinning del sito indire.it. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... L'altra Europa. Coffee and tea. Let's have a cup of coffee. Questo è il titolo di uno scambio europeo finanziato dal progetto Erasmus Plus, che si sta tenendo proprio in questi giorni ad Ankara, in Turchia, dal 31 ottobre al 6 novembre. E tanti ragazzi tra i 18 e i 25 anni da Estonia, Turchia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Italia. Il fatto che sia in Turchia assume ovviamente un significato ancora più particolare in questa Turchia che sembra sempre più lontana dall'Europa. Beh, in questa Turchia si va a vivere quella che è la contaminazione culturale, quella che è la conoscenza reciproca, e lo si fa attraverso il caffè. Con noi Yasmin Khalil, 24 anni, studia scienze internazionali a Torino ed è una delle protagoniste dello scambio. Ciao Yasmin. Ciao a tutti e a tutte. 24 anni, studentessa di scienze internazionali a Torino. Cosa state facendo lì ad Ankara? Stiamo partecipando a un progetto, a uno scambio giovanile di una settimana, sì. Finanziato dalla Commissione Europea. Il tema principale è quello del caffè, infatti si chiama Let's Have a Cup of Tea, proprio perché in genere il caffè in tutto il mondo viene utilizzato come una scusa per incontrarsi, per discutere di vari temi, e quindi era interessante sia riprendere la tradizione del caffè, ma anche esplorarne la storia o le varie tradizioni o le varie preparazioni. A partecipare ci sono 6 nazioni diverse e 6 partecipanti per ciascuna nazione. Mm-hmm. Nelle attività che svolgiamo ci sono delle presentazioni sul caffè di ciascuna nazione, le diverse varianti, ma anche delle attività interculturali varie per conoscerci tra di noi. Certo, il caffè è un pretesto per parlare di cultura, parlare di integrazione, parlare anche di cittadinanza attiva. Tu studi scienze internazionali, quindi insomma è anche parte del tuo ambito, delle tue competenze. Come mai hai scelto di affrontare questo viaggio, di vivere questa esperienza? Perché innanzitutto per la gratuità dell'iniziativa. Infatti noi giovani che ancora non facciamo parte del mondo del lavoro non riusciamo spesso a poter viaggiare, a conoscere nuove culture o partecipare a dei progetti che possano essere non soltanto divertenti ma anche stimolanti per pensare a un futuro prossimo. Questi scambi invece giovanili permettono ai giovani dai 18 ai 30 anni di poter partecipare gratuitamente. Uh-huh. E poi perché ci sono diverse nazionalità che partecipano a questo scambio, in particolare quelli dell'Est Europa in questa settimana, ed è interessante perché in Italia ci penso sempre di essere nell'Europa occidentale, di essere molto più vicini alla Spagna, alla Francia, quando invece, conoscendo anche i ragazzi dell'Estonia, della Romania, della Polonia, ci sono molte vicinanze riguardo la cultura, con la Romania soprattutto la lingua, certo, eccetera. Yasmin, c'era un po' di timore per il fatto che questa esperienza fosse in Turchia? Sì, in realtà sì, perché io avevo anche vinto un bando Erasmus Studio di 5 mesi per Istanbul, però la mia università aveva annullato lo scambio. Sì, l'aveva annullato perché il Ministero degli Affari Esteri italiano aveva bloccato tutti gli scambi verso la Turchia. Questi scambi invece giovanili sono ancora possibili, è ancora possibile partecipare, quindi ho voluto farlo perché soprattutto appunto dopo il tentativo di colpo di Stato avrei voluto comunque conoscere anche le motivazioni che c'erano dietro, capire come la popolazione sta vivendo questa situazione. Questo quindi è Let's Have a Cup of Coffee. Ciao Yasmin, grazie, buono scambio. Youngeffect.org invece è il sito di riferimento dell'associazione che per l'Italia ha promosso lo scambio. Europost-it. Tirocini all'Agenzia Spaziale Europea. Sogni lo spazio? Sei studente o neolaureato in materie tecnico-scientifiche e desideri mettere in pratica quanto hai imparato? Ogni anno a metà novembre l'Agenzia Aerospaziale Europea apre i reclutamenti per tirocinanti che vogliono far parte del team. Le offerte sono dedicate a ingegneri, fisici, biologi, ma anche laureati in business e legge. La European Space Agency propone diversi tirocini nei suoi centri europei agli studenti che vogliano preparare la loro tesi su un argomento correlato e ai neolaureati che vogliano affrontare un'esperienza di un anno nel settore delle ricerche aerospaziali. Per saperne di più e identificare la base di ricerca che più ti interessa, consulta la sezione Careers sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.int. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Ancora mobilità europea, una sorta di scambio, però in questo caso per over 55. Si chiama Please, è un progetto che cerca di incentivare il turismo senior, diciamo, vede coinvolti l'Italia, la Spagna, la Grecia, la Malta e la Bulgaria. Capofilo del progetto è il comune di Scontrone, con noi Giuseppina Adamo, project manager per ANAS, che è l'associazione nazionale azione sociale. Buon sabato Adamo, benvenuta all'Altra Europa. Buon sabato, buongiorno a tutti. In realtà il capofila del progetto è l'Associazione Nazionale di Azione Sociale, ANAS. Ah, ok, perfetto. Il comune di Scontrone è una piccola realtà partner del progetto, insieme ad altri 8 partner provenienti dai 5 paesi che lei prima ha elencato. Progetto che ha come obiettivo quello di fare una mobilità culturale, perché fanno turismo di fatto queste persone? Sì, l'obiettivo del progetto è quello di organizzare una vacanza low cost per senior per persone con età media tra i 55 e i 70 anni, che hanno più tempo da spendere e soprattutto hanno più voglia di dedicarsi a conoscere nuove realtà avendo a disposizione un piccolo budget. In questo momento dove vi trovate? Come funziona il progetto? In questo momento stiamo facendo il pilota esperienziale, il target, il test di ottimizzazione. Gli italiani sono in Bulgaria ad ottimizzare il concetto tipo di vacanza per questa tipologia di persone. Si stanno, devo dire, divertendo molto, stanno visitando Sofia, Plovdiv e altre realtà bulgare, facendo anche un percorso non solo gastronomico ma anche termale. Mm-hmm. E quindi hanno scoperto che con una risorsa economica che si aggira intorno a 650 euro possono fare una vacanza di 6 notti, 7 giorni, potendo usufruire di servizi alla loro portata. Certo, perché gli obiettivi sono proprio questi, sfruttare la bassa stagione, le destinazioni lontane dai principali circuiti turistici, proprio per magari tenere il prezzo contenuto e favorire anche la scoperta di altre mete. E questo progetto rilancia il concetto di cittadinanza attiva o ci sono altre finalità? Il progetto appunto rilancia il concetto di cittadinanza attiva, ma soprattutto rimette al centro l'essere umano e la sua possibilità di potersi godere la vita anche ad una certa età, ed organizzare in periodi di destagionalizzazione un tour che gli permetta di visitare località che da un lato sono a minor visibilità sono di maggior pregio dal punto di vista architettonico, ambientale e turistico. Ma sono tour replicabili? Nel senso che questo gruppo L'obiettivo del progetto è quello poi di creare un modello replicabile in altre realtà. Per questo che questi signori, che in questo momento tra virgolette ci fanno da cavia, stanno proprio redigendo un travel journal rapportando il tutto per permetterci di poter stilare una vacanza tipo per questo target. Ricordiamo anasitalia.org, questo è il sito dell'Associazione Nazionale Azione Sociale, lì potete trovare tutte le informazioni relative a Please. Grazie davvero a Giuseppina Adamo, buon sabato. Grazie, buon sabato a tutti voi. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, and the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees, young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets, are my brothers down. Ancora buon sabato da Federico Taddia, chiocciola Federico Taddia sui social, Twitter e Facebook, oppure chiocciola Euronet Plus R24, ancora radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata, scaricare il podcast, trovare tutti i contributi targati Euronet Plus, il network al quale apparteniamo, una voce unica per le tante Europe diverse che però cercano percorsi comuni che spesso per fortuna vengono enfatizzati e amplificati dal concetto di cultura, che come sapete è una delle colonne a cui teniamo particolarmente per la nostra Europa. E si è tenuto proprio ieri a Viterbo un importante evento per la valorizzazione del patrimonio culturale, cultura svelata, verso il 2018, anno europeo del patrimonio culturale. Si inizia a guardare avanti, si inizia a pensare a questo anno che deve essere qualcosa non solo di simbolico. Ne parliamo quindi, abbiamo il piacere di avere qua con noi all'Altra Europa l'eurodeputata e presidentessa della Commissione Cultura del Patrimonio Europeo, Silvia Costa. Buon sabato Silvia. Buongiorno, ben trovati. Ben trovata. Allora, ieri un appuntamento importante che volevamo sottolinearlo in ottica appunto del 2018, ma perché ci riporta anche a quello che sta succedendo in questi giorni, dove il sisma ha minato terribilmente il nostro patrimonio culturale. Partiamo guardando avanti o partiamo guardando oggi, Silvia? Beh, direi che possiamo guardare avanti anche partendo da una realtà così tragica come quella che abbiamo visto. Intanto una piccola speranza ci viene dal fatto che non solo il governo è impegnato a trovare le risorse, anche in Europa ci stiamo mettendo tutte perché questa ricostruzione anche del patrimonio culturale sia garantita. Io ricordo un esempio per tutti, penso a San Francesco ad Assisi, vi ricordate? Hanno raccolto tutti i più piccoli frammenti e oggi abbiamo una basilica ricostruita, quindi abbiamo le capacità e le competenze e penso anche la volontà di farlo. Mi fa piacere che un imprenditore come Cucinelli, che un imprenditore umbro, si sia già offerto di sostenere la ricostruzione di San Benedetto a Norcia. Insomma, guardiamo d'oggi, siamo naturalmente solidali con le popolazioni e con tutti quelli colpiti anche in questi simboli delle comunità locali che poi sono anche universali, San Benedetto è il patrono d'Europa, ma guardiamo anche avanti a quello che si deve fare e quindi anche a prevenire e a tutelare il patrimonio culturale. Certo. Cultura svelata invece, di cosa, sì, cosa, si, di tratta, cosa, si, tratta, di cosa si tratta? Il senso è quello di dire noi abbiamo una grande risorsa, che è una risorsa di senso, che è una risorsa di significati, che è una risorsa di emancipazione personale, di crescita, di libertà, ma anche una grande risorsa produttiva, una risorsa economica, grande nuova forma per esempio di turismo culturale, che è quello più in aumento insieme a quello naturalistico. E allora forse ci dimentichiamo che ci sono delle strategie che si devono fare come paese e come Europa per rendere noi ancora, perché lei sa che l'Europa è ancora il primo paese di attrazione turistica nel mondo, ma in particolare sotto il profilo del turismo culturale, che per l'Italia poi ha un particolare valore. Ma spesso noi non abbiamo una capacità sufficiente di elaborare strategie di accoglienza, di qualità dei servizi e anche di valorizzazione dei beni. Oggi finalmente, anche con devo dire il ministro Franceschini, che su questo è molto speso, penso anche all'art bonus, al rinnovo delle nomine dei sovrintendenti, a una maggiore autonomia che possono avere le fondazioni, i musei e le gallerie, si sta proprio investendo in questo, e l'Europa deve fare la sua parte e stiamo cercando di farlo. La proclamazione dell'anno europeo del 2018 come anno europeo della cultura, lo devo dire con franchezza, è una vittoria direi anche un po' personale oltre che politica della Commissione Cultura e del governo italiano, che fin dal 2014 l'ha chiesto insieme al governo francese e tedesco, ma se non ci fosse stata la nostra caparbietà non l'avremmo questo risultato. Certo. E quindi ora si tratta di lavorare in quella direzione. Costa, ma quando pensiamo al patrimonio culturale dobbiamo pensare solo alle chiese, solo ai nostri bellissimi centri storici, solo ai nostri musei, o è altro? No, è come dice la Convenzione UNESCO, il patrimonio culturale è materiale, quindi quello che lei sottolineava, ma anche il patrimonio immateriale. Pensiamo a tutto ciò che sono anche le tradizioni locali, pensiamo alla musica, pensiamo a tutto ciò che è anche non fisicamente tangibile, ma è intangibile, ma altrettanto di valore. E allora credo che in questo senso, per esempio, che delle strategie come quella dell'Europea, delle capitali europee della cultura, sì, quest'anno compiono 30 anni questo meraviglioso progetto, noi vorremmo, io ho chiesto di fare uno studio su quella che è stata questa esperienza, perché può insegnare tante cose di come si può riprogettare le città partendo dalla cultura, addirittura da piani urbanistici culturali. Penso agli itinerari culturali europei, di cui lei sa, io sono una fan, e abbiamo ottenuto di portarlo fino a Brindisi, per esempio la via Francigena. Penso anche al fatto che quest'anno, essendo l'anno del Giubileo, è stato proclamato in Italia l'anno dei cammini, e quindi si sta rivalutando, non so, dall'Appia fino a percorsi interregionali. Penso però a tutto il tema di mettere a sistema l'offerta culturale come anche una possibilità di ampliare l'accesso. Troppe poche persone ancora conoscono anche i beni culturali del loro territorio. Certo. E allora si tratta di fare un grande sforzo. Ricordiamo che appunto 2019 poi sarà Matera, capitale europea della cultura, quindi questo 2018 è proprio il cammino ideale per avvicinarsi a questo appuntamento importante per Matera, ma per l'intero paese. Grazie davvero a Silvia Costa, presidentessa della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Come sempre, buon lavoro, Costa. Grazie a voi, veramente. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. L'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che raccontiamo qui all'Altra Europa, però diciamo sempre che non vogliamo nascondere le criticità, cerchiamo anzi di affrontarle con occhio equilibrato, senza seguire la cronaca. L'immigrazione, sappiamo che una delle grandissime ferite dell'Europa, l'immigrazione è quel virus che sta cercando anche di spezzettare l'Europa, ma l'immigrazione è, ce lo dimentichiamo troppe volte, sono persone, non sono numeri, sono persone, sono storie, sono speranze. E l'immigrazione vuol dire ogni anno un numero sterminato di morti, e questo numero sterminato di morti si porta dietro un'altra problematica, che è quella del riconoscimento, della dignità nel dare un nome alle vittime. E questo lavoro è portato avanti con coraggio, con intensità, da un gruppo di lavoro italiano coordinato da Cristina Cattaneo, medico legale dell'Abanoff, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano, che abbiamo qua con noi. Buongiorno Cattaneo, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Qual è quest'altra Europa che voi raccontate? Qual è il lavoro che fate quotidianamente per dare un nome alle persone che cercano una speranza in Europa e invece trovano la morte? Diciamo che noi coordiniamo quella che è la parte medico-legale, un progetto molto grosso che vede coinvolto anche la conferenza dei rettori e 10 università per ora, ed è coordinato dal commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Piscitelli, ed è un lavoro, diciamo che è uno studio pilota che mira a cercare di uniformare le dinamiche e le modalità di raccolta dei dati sui cadaveri e delle raccolte dei dati dai parenti che reclamano i loro scomparsi, perché bisogna ricordarsi che stiamo parlando di diritti, di dignità dei morti, eccetera, ma soprattutto identificare i morti è fondamentale per chi sta dietro. Diamo troppo per scontato che nessuno cerca questi morti, che non ci sono anagrafi nei paesi d'origine, questo non è assolutamente vero, e tant'è che sono persone come tutti gli altri, come diceva lei prima, e ci sono già organizzazioni che stanno costituendosi per cercare di raccogliere dati nei paesi di origine, che sia l'Eritrea, il Senegal, il Mali, per darli al governo italiano, che è l'unico in Europa che si sta occupando di questa cosa al momento. E dicevo, è fondamentale perché chi rimane non soltanto rimane in un limbo di non sapere se il fratello o il padre è morto, che diventa poi un problema anche di salute mentale per non poter elaborare il lutto, ma soprattutto ci sono delle problematiche amministrative importantissime, orfani che non riescono a fare ricongiungimenti con gli unici parenti rimasti in Nord Europa perché non c'è il certificato di morte di mamma e papà che erano su quel barcone, a dire soltanto, a fare proprio un esempio, sono tantissimi gli esempi delle cose che stiamo imparando anche noi sull'importanza di identificarli questi morti. Cattaneo, ma ci sono gli strumenti per riuscire a fare un lavoro veramente in larga scala? Nel senso, questo coordinamento è solo auspicato o è già in atto? No, il coordinamento c'è, ci sono gli strumenti, c'è un protocollo, c'è un iter, mancano i finanziamenti e diciamo così che manca ancora una struttura che renda possibile, una struttura europea e una struttura nei paesi di origine che renda possibile, diciamo così, raccogliere i dati in maniera sicura, in maniera professionale. Cioè, per esempio, dobbiamo mettere in rete tutti i dati di tutti i morti sulle sponde del sud del Mediterraneo, così come dobbiamo mettere in rete i dati che noi chiamiamo antimortem, cioè che sono quelli che danno i familiari che li cercano, può essere il DNA, può essere una fotografia, può essere qualunque altra cosa che serve per identificare, che però chi poi devono essere utilizzati per comparare con quelli dei morti e arrivare a un'identificazione, e serve una struttura, un'infrastruttura amministrativa che non esiste ancora, e manca ancora, diciamo così, un framework nel quale poter lavorare, ci sono dei vuoti normativi molto grossi da colmare. Stamattina abbiamo presentato alla Camera un libro fatto con i costituzionalisti dell'Università di Milano, Marilisa D'Amico, che si chiama Diritti Annegati, che parla proprio di queste carenze, ma di quanto ci sia di potenziale, perché la strada è stata tracciata. Quanto la rete, per esempio anche Facebook, vi sono d'aiuto? Allora, Facebook è importantissimo perché abbiamo fatto, visto sulle vittime di Lampedusa, in quei pochi casi che siamo riusciti ad identificare, abbiamo visto che molto spesso, se i cadaveri sono ben conservati, Facebook può essere utilissimo. Questi ragazzi, che sono dei ragazzi come i nostri, hanno profili Facebook e quindi dal profilo Facebook puoi vedere il tatuaggio, puoi vedere il profilo dei denti, puoi vedere tante cose che insieme al DNA ti aiutano ad arrivare a un'identificazione. È chiaro che non puoi fare il contrario, non puoi, certo, sottoporre a un social network i dati sensibili dei morti, visto che molte di queste persone vengono da paesi con dei governi, diciamo così, che non esiterebbero a mettere in pericolo forse la vita o la libertà di chi rimane dietro ed è parente di chi è fuggito da quel paese. Quindi bisogna stare molto attenti però con il discorso contrario, ecco. Ricordiamo il sito labanov.unimi.it per avere informazioni sul laboratorio. Un grazie a Cristina Cattaneo. Buon lavoro, Cattaneo, a lei e tutto grazie il suo team. Grazie. Grazie. Buon sabato. Noi ci fermiamo. Le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta l'Altra Europa. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Missione Marte, R2T2, è il nome del challenge che si è tenuto mercoledì presso Cascina Triulza, un challenge di robotica dove erano a contendersi un po' questa sorta di torneo tra robot, squadre partecipanti dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Russia, dal Sudafrica. C'erano anche 2 squadre italiane, una di Borgonovo Valtidone e l'altra invece di Cascina Triulza, e parliamo con 2 dei partecipanti. Lei è una ragazza che ha partecipato al contest, era aperto a team di ragazzi tra i 10 e i 14 anni, Maddalena Guida. Ciao Maddalena. Ciao. Ciao, buon sabato. E invece quello che ha coordinato il tutto per la cooperativa sociale Onlus Stripes è con noi Igor Guida, che lo diciamo anche il papà di Maddalena. Ciao Igor. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Igor, di cosa si tratta? Intanto questo robot Timio, che cos'è e perché viene utilizzato con finalità educative? Allora, il robot Timio è un piccolo robot utilizzato essenzialmente per scopi didattici ed educativi, ed è molto ben congegnato e ingegnerizzato perché viene utilizzato a partire dai 4 anni ma fino all'università. Quindi abbiamo realtà politecnici che lo utilizzano per far fare esami universitari, così come realtà delle materne che lo utilizzano per introdurre il concetto di coding, di programmazione, con i bambini già molto piccoli. In modo particolare questa cosa è possibile perché per i bambini molto piccoli, non appena si apre questo piccolo robot, abbiamo subito 6 comportamenti utilizzabili, che sono quello dell'essere amichevole, esploratore, timoroso, obbediente, investigatore, e sono in realtà dei comportamenti che nascono da quelle che erano le macchine pensanti di Valentino Breitenberg, che è un neurologo e studioso di cibernetica italiana, che purtroppo ci ha lasciato nel 2011, e aveva ipotizzato l'esistenza di questa sorta di macchine pensanti che fossero in grado di esprimere dei comportamenti di tipo emotivo. Infatti anche Timio viene dal greco e rappresenta un po' questa cosa del mondo dell'emozione. Questo robot nasce insieme all'IPFL, quindi a Losanna, sì, da un professore che si chiama Francesco Mondada, che ha appunto ipotizzato di andare a creare un qualcosa di totalmente open hardware, open source, quindi è qualcosa che qualcuno si può autoprodurre senza necessariamente andare ad acquistare, perché tutti i progetti, gli schemi e il software sono totalmente gratuiti per tutti quanti. Uh-huh. E avete usato questo robot, appunto, dato in mano a dei team di adolescenti, avete simulato una sorta di sbarco su Marte, dove i ragazzi erano impegnati nei vari ruoli, con, appunto, facendo una simulazione. Maddalena, per esempio, tu di cosa ti sei occupata? Io mi sono occupata della comunicazione con un'altra mia compagna di squadra, ci coordinavamo con le altre nazioni come la Francia e la Svizzera per non scontrarsi con i Timio nella base di Marte. Com'è andata? Molto bene. Sì. E Maddalena, ma al di là della cosa, dell'esperienza tecnica, insomma, penso sia stata un'esperienza personale anche importante. Sì, è stato molto divertente e costruttivo. Sì. Cosa hai imparato? Ho imparato a programmare e anche in generale a collaborare. Uh-huh. E, tra l'altro leggevo proprio in questi giorni, Igor, e ne abbiamo parlato anche qui all'Altra Europa, di progetti legati proprio alla robotica nei confronti dei NEET, nei confronti di chi abbandona la scuola. E, da questa esperienza cosa avete appreso? Qual è la potenzialità di questo strumento? Noi abbiamo iniziato a utilizzarlo già nelle scuole materne, ma già facevamo dei corsi di coding con, ad esempio, con un software del Massachusetts Institute of Technology che si chiama Scratch, e che serve anche quello a introdurre, diciamo, il coding. È molto uno strumento potente perché riesce ad essere attrattivo, perché i ragazzi, ma anche gli adulti, devo dire, si sentono in qualche modo attratti da questo strumento. E spesso la cosa vincente del team in particolare è quella che, ad esempio, gli insegnanti non ne sono spaventati, in quanto è sufficiente aprirlo per iniziare a farlo funzionare. Esiste un libro di quasi 300 pagine con le attività che coprono, appunto, dai 4 anni all'università, quindi il docente che non ha competenze informatiche né tantomeno di robotica è in grado in realtà di assolvere quelli che sono un po' i dettami che arrivano anche dal MIUR, perché è dal 2009 che si dovrebbe iniziare a introdurre il coding nelle scuole, ed è una cosa che non è stata in realtà poi fatta, si sta iniziando adesso, insomma, a muovere i primi passi in Italia. Invece all'estero, ad esempio la Francia in modo particolare, che funziona in maniera un po' diversa e quindi tutto un po' più centralizzato, l'equivalente del MIUR francese ha dato come indicazione a tutte le scuole, 10.000 nello specifico, di iniziare a utilizzare questo strumento. L'hanno scelto proprio in virtù del fatto che fosse open hardware e open source, per cui non si andava ad avvantaggiare una società, un vendor privato, diciamo, no? Ma si andava ad avvantaggiare l'utilizzo di uno strumento che è replicabile in qualche modo. E lo si è utilizzato, ad esempio, anche per il discorso del bullismo, oggi molto attuale, anche del sexting, quindi cyberbullismo, sexting e bullismo li si può affrontare facendo dei giochi insieme ai ragazzi, quindi non so, degli ultimi anni dell'elementare o delle medie o dei primi anni delle superiori, dove si fanno interpretare i vari ruoli del dile, del bullo, direttamente da questi robot che si muovono all'interno di una sorta di mega tabellone, mostrando quelli che sono gli atteggiamenti che in realtà non si dovrebbero tenere. Quindi poi lo psicopedagogista interviene con i ragazzi, li fa ragionare su che cosa hanno visto. Quindi è una sorta di messa in scena teatralizzata in qualche modo, fatta attraverso i robot. Quindi diciamo che il limite è un po' la fantasia, è uno strumento didattico molto potente. Riattivare una stazione di ricerca su Marte danneggiata da una meteorite, questo era lo scopo di R2T2. E Maddalena, ce l'avete fatta alla fine? Sì, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, obiettivo raggiunto, questo è importante. Ciao Maddalena, grazie. Ciao Igor Guida, buon sabato. Buon sabato anche voi. E termina qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie alla parte tecnica, Filippo Aureggi, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Come sempre, l'Altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete contattarci, oppure radio24.it, il nostro sito, e ancora mi trovate su tutti i social, in particolare Facebook e Twitter. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.